10 anni prima di Cristo. L'uomo è un mondo a parte. L'uomo. Aie. L'uomo era una bestia rara, con pelo fuori interni da Alcantara. Si girava la sapana, si riuniva pure senza la campana. Si accampava per il sonno, non campava, non contava le ore, contemplava il sole. Non possedeva gesti né parole, produceva amore per la prole. Il cielo le sue scuole, a terra le sue suole, di pelle, carne, ossa, quelle suole. E in quelle ore la lezione era cercare per mangiare, strafare per amare, modificare il posto dove stare e non aver paura di morire, perché tutto torna a vivere se lo sai seppellire. Si può cacciare per mangiare, uccidere per procreare, strappare, rivoltarsi contro chi ci può capire, rovesciare leggi che non possono finire. Si può vivere, margini, si può vivere sopra, si può vivere meglio, si può vivere o no. The rain it stays mainly in the rain. Si può vivere, margini, si può vivere sopra, si può vivere meglio, si può vivere o no. The rain it stays mainly in the rain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Al mondo, ha preso il mondo e l'ha messo a posto. Ha dato premi a chi ha fatto questo, ma poi la storia di nascosto proclama criminali eroi, acclama chi è contro di noi e fa soltanto gli interessi suoi. Si può pagare per lavorare, uccidere per guadagnare, strappare, distruggere per costruire, vender morte a chi la morte non la vuole vivere. Si può vivere, margini, si può vivere sopra, si può vivere meglio, si può vivere o no. The rain stays mainly in the rain. Si può vivere ai margini, si può vivere sopra, si può vivere meglio, si può vivere o no. The rain in Spain stays mainly in the rain. Spiegami perché sto piangendo. The rain.